Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Con le mani sul grilletto stiamo arrivando a Roma, recita così il fotomontaggio pubblicato su Twitter da un account legato all'ISIS. Propaganda per mettere pressioni sul nostro paese, nuova minaccia di un'occupazione del nostro territorio pronta ad essere messa in atto con tanto di armi. Certo, fa impressione vedere il simbolo forse più famoso di Roma con sopra sventolante la bandiera nera di al-Baghdadi. Di foto del genere su internet ne girano diverse da quando i terroristi del sedicente Stato Islamico hanno deciso di mettere l'insana paura l'Italia con minacce che si ripetono ormai ogni giorno. Le onde ancora ci separano, ma questo è un mare piccolo, è una promessa al nostro profeta, si legge online sul post che accompagna la fotografia, nel quale veniamo definiti cani da guardia dei paesi arabi, invettive fanatiche e farneticanti che comunque un'insana paura, ma perché esiste la possibilità di mettere a delle persone una sana paura? La paura è sana quando è sana, è sana forse quando ci mette in allarme verso un pericolo, ma in questo caso questa mattina è altro lo scopo della trasmissione. Voglio riprendere un discorso che a me sta molto a cuore, che iniziamo qualche mese fa come unici, devo dire, nel panorama dell'informazione, perché sembrava una follia quello che noi dicevamo. Oggi vedo che su Repubblica un personaggio importante che ha scritto un libro importante sull'Islam e la modernità parla della modernità perversa dei carnefici del califfato, facendo l'analisi, diciamo, dei messaggi mediatici di questi carnefici. Quando per la prima volta con Bruno Ballardini, che intanto al telefono e saluto, buongiorno Bruno. Buongiorno a tutti. Parlammo di campagna pubblicitaria, di grande campagna mediatica, la gente ci rideva dietro. Ballardini, tra poco avremo in mano il suo libro, su questo ha scritto approfondito, e oggi non con un piacere ma con necessità di ulteriore approfondimento dovremmo fare un'altra analisi. Allora, che la guerra fosse il trionfo di ogni ambiguità, in cui la prima vittima è proprio la verità, lo diceva Eschilo 5 secoli prima di Cristo, Jean Baudrillard su questo delitto perfetto ci ha fatto gran parte della sua filosofia, ma sembra che abbiamo a che fare con persone che comunque ci conoscono molto bene e prevedono anche le nostre reazioni. La cartolina di cui stava parlando il collega, con il Colosseo, col guerrigliero con il mitragliatore sulle spalle, con la bandiera nera dell'ISIS issata sul Colosseo, con la caligine dietro fumosa, sembra perfettamente la promozione di un nuovo videogioco, solo per un eccesso probabilmente o un residuo senso di buon gusto, forse per pura paura, potenzialmente nessuno in questo carnevale si è vestito con la tuta arancione o con il vestito nero del boia, nessuno ha revocato queste immagini, ma sembrano perfette come ispirazione per dei cosplayer, per travestirsi da qualcosa che appartiene al mondo della, non della realtà ma della fantasia. Gli ultimi elementi sono stati dati, gli esperti che analizzano il filmato dello sgozzamento alle 21 sulle rive del mare con l'onda di sangue che arriva a lambire la nostra penisola, ma sarà vero, sarà finto, hanno usato effetti elettronici, non erano 21, erano 5 o 6, lo studio delle proporzioni, il nuovo immaginario che hanno tirato fuori dopo che avevamo detto e previsto che in realtà lo sgozzamento ormai non aveva più l'impatto che poteva avere, l'immaginario della gabbia che è qualcosa di arcaico, di medievale, qualcosa che ci riporta a piazze molto antiche in cui venivano portati in gabbia i condannati per una sorta di pubblico monito. Beh, di tutto questo vorremmo parlare questa mattina. La domanda che vi faccio è: state in qualche maniera analizzando, subendo o provando delle reazioni rispetto a questa grande campagna pubblicitaria? Forse qualcosa poi sortirà realmente, concretamente, ma al momento che impressione vi fanno le immagini delle persone in gabbia, l'immagine del Colosseo con il guerrigliero e la bandiera nera e tutto quello che ogni giorno viene amplificato e riverbera sui nostri giornali? 800240024. Un nuovo terribile video dell'ISIS considerato autentico da site mostra 21 combattenti curdi mentre sono fatti infatti sfilare delle strade affollate nella provincia di Kirkuk, ciascuno dentro una gabbia. Nel filmato di 9 minuti diffuso sabato sera, i terroristi minacciano di decapitare i 21 ostaggi e poi intervistano i prigionieri da dietro le sbarre. Nel video i peshmerga sono rinchiusi in gabbie simili a quella usata nel video dell'uccisione del pilota Giordano, bruciato vivo. Sono portati a bordo di pick-up insieme con militanti che sventolano la bandiera nera dello Stato Islamico per le strade della città affollate da sostenitori dell'ISIS. Primo SMS che mi arriva, che vorrei sottoporre immediatamente al giudizio e alla riflessione di Bruno Ballardini, che ricordo che è un esperto di marketing e comunicazione strategica, ha scritto un libro su Papa Francesco, sul genio del marketing, che però di attualità è stato immediatamente surclassato dall'analisi che sta facendo sui messaggi dell'ISIS. Il primo a scrivermi è un ascoltatore, Edo da Milano, dice: ma perché ti presti a fare da cassa di risonanza a quei fanatici? Silenziati e non rompere più i coglioni. Bruno. Ma io non sono affatto d'accordo, perché questa è la vecchia polemica che c'era già all'epoca delle Brigate Rosse, quando si diceva che occorreva chiudere i canali che c'erano allora, perlomeno, per evitare di fare da cassa da risonanza. Qui il problema non è questo, non è la radio, non è la televisione. Dicevamo prima che loro ci ascoltano. Fra noi e loro c'è internet adesso, e quindi loro sentono in tempo reale quello che noi diciamo e si adeguano continuamente, cambiando strategia. Quindi non è possibile, a meno che non oscuriamo internet, arrivare a chiudere i canali. Sai, è come quelli che dicono: io la televisione non la guardo, non ce l'ho nemmeno a casa. Ormai la comunicazione, i messaggi ci contaminano, al di là del fatto che noi abbiamo poi i terminali concreti per riceverli. Quindi di questo stiamo comunque parlando, perché questo avviene in tutti i giornali. C'è questa foto delle 21 gabbie con i prigionieri dietro. Cominciamo a fare un'analisi proprio nelle corde di quello che abbiamo sempre fatto, di questa evoluzione del messaggio. Non voglio usare termini escalation della violenza, sangue, solo vorrei analizzare come un messaggio. Che poi le persone siano realmente sgozzate, bruciate, uccise, è vero, non lo possiamo sottovalutare. Ma io voglio fermarmi all'aspetto di esposizione del messaggio. Allora, diciamo, le analisi a posteriori fatte sulla post-produzione, come quelle che sono uscite da Fox, la Fox poi è citata da Olimpio su Corriere della Sera, lasciano il tempo che trovano, perché ci interessa poco la cucina in termini di post-produzione, è il fatto in sé, in termini semiotici, che cosa ci stanno trasmettendo. Le gabbie messe in cerchio sono chiaramente anche la sfilata delle bestie nelle gabbie, è un richiamo al Colosseo, è una citazione di tempi andati che può colpire soltanto chi nella storia ha queste cose, quindi sembrerebbe una regia dietro piuttosto colta, piuttosto preparata e capace di riconoscere elementi che funzionano con la nostra sensibilità. Hanno capito esattamente lo spostamento da un'immagine simbolica inesistente come Babilonia verso Roma e il Colosseo, simbolo comunque un potere forte e vessatorio che gioca con persone all'indermi e le mette in pasto alle belve. Mi sembra perfetto, il Colosseo diventa il simbolo principale di quello che loro devono abbattere, molto di più che una ipotetica Babilonia che esiste soltanto nelle immagini figurate. Esattamente, poi c'è questa forma di cinismo solita per cui si tratta con le vittime come se fossero attori di questo orribile film, di questo gli si fa l'intervista addirittura, cioè c'è una specie di improvvisato anchorman, un mujahideen con il microfono, con il marchio dello Stato Islamico. Quindi come avesse un emittente ufficiale. Come un emittente ufficiale, esattamente. Una presa in giro anche del rovesciamento dei nostri modi, delle nostre abitudini televisive. Ci fanno rimangiare tutto quello che è la nostra, diciamo, cultura mediatica. La cosa sconvolgente è appunto il cambio continuo di l'adattamento alle nostre reazioni, perché loro utilizzano internet in questo modo proprio bidirezionale, cioè, citando il mio amico Vanni Codeluppi, i media siamo esattamente noi, siamo noi che facciamo da amplificatori. Fermiamoci un attimo, sentiamo gli ascoltatori. Giovanni, buongiorno. Buongiorno a lei, complimenti per la sua trasmissione. Sarò velocissimo, una considerazione molto semplice. in merito a tutto questo discorso. Ci rendiamo conto che non siamo in grado neanche di tutelarci una fontana e vogliamo cercare di misurarsi con quello che è il problema dell'ISIS. Ma questo non si preoccupa nessuno di questo. Ecco, volevo dire solo. Era la trasmissione di 3 giorni fa, comunque prendo atto di quello che dice. Fermandoci semplicemente non tanto all'analisi delle strategie e delle tattiche di guerra, ma alle immagini, sì, è vero, l'abbiamo messa in contrapposizione, una fontana importante da un punto di vista storico e artistico, in preda a un gruppo di teppisti ubriachi che la usavano come un orinatoio, e la capacità che abbiamo noi di contrastare con immagini forti che diano segni di civiltà, queste immagini che entrano in una sorta di zona dell'immaginario che conosciamo bene, è quella dei nostri messaggi via Twitter, via Facebook, dei nostri selfie, è quella in cui mostriamo l'artefazione di noi stessi. Loro entrano in questo mondo artefatto con altre probabili artefazioni, ma ci colpiscono a fondo. Giuseppe. Sì, buongiorno. Molto rapidamente, il condizionamento di questi eventi ISIS, avevamo ipotizzato, avevamo messo in cantiere un viaggio negli Stati Uniti durante agosto. Abbiamo deciso di evitare questo tipo di vacanza perché avremmo dovuto necessariamente prendere aerei che ritengo mezzi vulnerabili e metropolitane. Uno, questa è la prima considerazione. La seconda, la sensazione che si ha è che noi siamo, dal punto di vista dell'intelligence, completamente impreparati ad affrontare delle situazioni di questo però tipo. Però scusate, mi scusa Giuseppe, nessuno risponde alla mia domanda. Tutti ci diventiamo improvvisamente commissari tecnici sulle strategie mondiali di reazione al terrorismo. Dentro di lei non ha preso l'aereo per andare negli Stati Uniti qualche mese fa, ma oggi lei andrebbe a farsi una passeggiata per via dei Fori Imperiali o via della Conciliazione dopo le immagini che ha visto, con lo stesso animo di prima? No, assolutamente no. Come vede, quindi lo scopo è stato ottenuto. Sì. Ariela, buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, sì, anche io ho qualche suggerimento, ma dettato più che altro dalla rabbia di quelle ragazzine inglesi che sono partite per andare a fare le spose dell'Islam. Perché presentarli sempre come, è vero che lo sono, però perché presentarli sempre come combattenti dell'Islam, combattenti e martiri, eccetera, eccetera, non presentarli semplicemente come delinquenti e criminali quali essi sono. Lei allude alla notizia che è uscita oggi su dei giornali, ne parla Molinari sulla Stampa, che hanno trovato la grande mezzana che aveva studiato a Glasgow in una delle migliori università britanniche e ora è una signorina che recluta ragazzine occidentali che vanno a fare le spose, poi in realtà vanno a fare le schiave di combattenti islamici. Sì, certamente, ma è proprio la comunicazione che viene data dai media verso tutti noi come di persone che sono dei martiri, dei combattenti, ma no, nessuno terroristi, lo dice, questo lo esalta, no. Gli esalta, sì, va bene, ma questo gli esalta, loro. È corretto, però gli esalta, perché non dirli chiamarli soltanto delinquenti, assassini, criminali. Beh, non credo che cambi molto poi dal loro punto di vista. Dal loro punto di vista no, ma dal punto di vista nostro sì. Ma è chiaro, sono terroristi, sono criminali, questo è chiaro, ma nel raccontare la motivazione per cui vengono cercate spose per questi combattenti, questi combattenti hanno bisogno comunque del loro ristoro fisico, quindi gli servono praticamente dei trastulli genitali con cui poi loro possano più facilmente prepararsi alle non so quante vergini che potranno avere dopo l'esito finale della loro attività. Ci fermiamo solo un istante con Ballardini tra un secondo dopo il traffico. Melog, cronache meridiane. L'uccisione del reporter giapponese Kenji Goto aveva fatto temere il peggio anche per lui, perché anche per lui l'ISIS aveva chiesto la liberazione di una terrorista irachena, Sajida Rishawi, in carcere in Giordania, dopo aver partecipato a quello che è stato ribattezzato l'11 settembre di Amman nel 2005. I timori sono diventati realtà. Il pilota giordano Muat al-Kasesbeh, catturato lo scorso 24 dicembre nella zona di Raqqa, in Siria, è stato ammazzato. A dare per prima la notizia la responsabile di SITE, l'organizzazione che monitora i siti web jihadisti. Subito dopo la 00024 stiamo analizzando insieme a Bruno Ballardini, esperto di marketing e comunicazione strategica, tra poco uscirà il suo libro proprio di analisi di tutti i messaggi che passano attraverso la rete e che provengono dai guerriglieri del califfato islamico, cosa in questo momento, come sta evolvendo questa sorta di battaglia mediatica. Pier Alvise, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Bruno, ciao, ti ricordi di me? Pier Alvise, come stai? Benissimo, grazie. Senti, mi domandavo questa cosa che è abbastanza interessante, non c'è un simbolo in fondo pagano che non Piazza San Pietro. Perché ti sembra strano, Alvise? Perché mi sembra che, essendo loro degli integralisti islamici, avrebbero dovuto piantare la bandiera nera sopra Piazza San Pietro. Ma secondo te loro non hanno capito che non gliene sbatte più niente a nessuno della religione, almeno sostanzialmente, quindi hanno scelto un altro simbolo? Sono d'accordo, ma è un simbolo ancora più popolare San Pietro, visto soprattutto il Papa che abbiamo. In questo momento il Colosseo è statisticamente il monumento più noto in tutto il mondo. Vediamo cosa dice Ballardini. Questo sicuri? Ballardini, sì. Si tratta di una frettolosità dell'art director, diciamo, perché in sostanza montare la bandiera dell'ISIS sulla cupola era un po' più faticoso, ma soprattutto diciamo che hanno preso in una volta sola i due simboli, perché nel programma dell'ISIS c'è anche l'occupazione dell'Egitto, quindi va benissimo così. Anche perché, Bruno, io insisto sull'idea che in realtà nella visione internazionale noi vediamo il mondo come tutti pensassero che la cristianità è vista come qualcosa di realmente forte, ma io vedo i giapponesi che vanno a infilare la mano nella bocca della verità pensando che sia il monumento più importante di Roma. Non so in generale per il resto del mondo se il Colosseo racconti di più rispetto a quanto racconta San Pietro. C'è a dire questi giorni anche per i paradossi che accadono, il film di 007 lo stanno girando dentro il Colosseo come set, quindi pensa che assurdità, abbiamo una città devastata dai tifosi olandesi con 007 che scorrazza per il Colosseo e l'ISIS che mette la bandiera nera sul Colosseo. Ma si direbbe che non c'è pace per il Colosseo dall'epoca dei Barberini a oggi, è destinato a essere invaso in un modo o nell'altro, perché si è visto il traffico che c'è con questo film. Ci rimane anche l'idea, comunque noi siamo sempre i crociati, l'Italia è la nazione crociata, è il luogo da cui parte per eccellenza ogni crociata, la crociata rimane il simbolo fondamentale di tutte le conquiste e riconquiste che ci sono state in Europa e in Occidente riguardo al mondo islamico. Io vorrei ritornare molto velocemente alla questione dell'allarmismo dato dalla vicinanza della Libia. Non succede niente dalla Libia, non può accadere nulla, cioè i gommoni, è questo il terrorismo, cioè creare terrore, i gommoni non ci raggiungono, i missili Scud B hanno una gittata di 280 chilometri, arrivano sì e no a Lampedusa, ammesso che abbiano messo le mani su un arsenale che doveva essere già smantellato. Quindi il modo in cui funziona il terrorismo è il modo esattamente distorto in cui i giornalisti fanno disinformazione. Sentiamo Maurizio, buongiorno. Salve, buongiorno. Sì. Vorrei far notare che la fatturazione dei filmati ISIS seguono le forme registiche, recitative, simboliche più basse occidentali. Tipo le reclame dei materassi, le televendite dei materassi, qualcosa del genere. Sì, sì, appunto. No, un pochino più scafati, ma... I chiromanti. Dinamiche da un posto al sole, ecco, sia a livello interpretativo registico sia attoriale. Diciamo da soap familiare, ecco, una cosa del genere. Sì, sicuramente sono realizzati da filmmaker occidentali, ma di basso livello. Questo Ballardini lo sta sostenendo da mesi, è stato il primo a dirlo. Con forme poi patinate, però sostanzialmente sono registi italiani, occidentali. Occidentali. Ballardini, su quello che dice questo ascoltatore. Non ne sono del tutto convinto, cioè ci sono molti arabi nati in Europa che si sono trasferiti lì, quindi hanno fatto il modo di studiare cinematografia, tecniche di art direction, regia, eccetera. Non è assolutamente detto che siano occidentali. Ma sai, l'equivoco è, Bruno, che ancora noi pensiamo e ragioniamo in termini un po' limitativi. Un guerriero, un combattente, un terrorista dell'ISIS che ha vissuto fino a 25 anni, 30 anni a Londra e poi va a combattere in Siria, come lo chiami te? È un occidentale a tutti gli effetti, anche se le radici sono diverse. È un occidentale che ha fatto i suoi corsi di pubblicità, di grafica. La grafica è assolutamente nostra, ma noi non dobbiamo dobbiamo trattare il mondo arabo come se fossero una massa di primitivi sottosviluppati, perché sono università con scienze della comunicazione, corsi di art direction, c'è gente bravissima, c'è gente che ci sono i migliori programmatori del mondo, quindi non scherziamo su questo. Il discorso è un altro, il discorso è che questi film forse non tutti hanno visto tutto, c'è chi, io sono fra questi, si è fatto le notti, ha visto tutta la produzione e posso dire che c'è della videografia, della filmografia che meriterebbe il Festival di Cannes, come livello registico, come livello di produzione. Ci sono dei film veri e propri di un'ora, confezionati benissimo, recitati, se si può dire questo, benissimo, e roba da premio. E questi stanno circolando, diciamo, in dei circuiti limitati in questo momento? No, è che il problema è che vengono ospitati su server occidentali e spesso vengono cancellati un'ora dopo, mezz'ora dopo, ormai anche 5 minuti dopo che sono stati messi, come dire, in onda, e quindi è difficile ritrovarli se uno non conosce il titolo originale, perché poi vengono postati in server che non hanno la censura, come justpaste.it. Ma non sarebbe una cosa intelligente comunque riversarli e analizzarli e studiarli piuttosto che cancellarli semplicemente? È esattamente quello che ho fatto. Quindi sì, ci sarà una filmografia all'incontrario, nel senso che su materiali che ormai sono difficili da reperire, però è interessante poi vedere come sono stati fatti. Sentiamo Dino, buongiorno Dino. Buongiorno a lei e complimenti per la trasmissione. Senta, io sto sentendo sempre l'ISIS. Benissimo, loro hanno in mente di creare casino in tutto il mondo, ma i nostri governi, a cominciare da Obama, il nostro presidente Merkel, eccetera, stanno facendo di tutto per fare in modo che questo vada avanti. Però, dico io, non si possono mettere d'accordo e dire... A chi vabbè, scusi Dino, ritorniamo al commissario tecnico, noi stiamo a parlare di partite al bar, scusi, c'ho poco tempo. Silvana. Buongiorno, sì. Avevo detto che non era necessario, ho due parole da dire, proprio veramente poche cose. Io sento parlare di reato da parte d'Alfano, di quelli che vanno all'ISIS, no? che si convertono, tra virgolette, all'ISIS, che fanno queste cose. Io, un italiano che va a iscriversi a un qualsiasi altro esercito in un altro stato e che viene a prendere sotto tiro anche i suoi parenti, i suoi genitori, per me non è reato, è alto tradimento. Però con la storia che vogliono cambiare la Costituzione, che si vuole fare certe cose, io sono ancora l'antica, mi ricordo della patria. E qui cosa dovrebbe fare? Fucilarli alla schiena? Orgogliosa. No, qual è la differenza fra un reato e alto tradimento? È semplicemente una persona che va... Eh sì, secondo me uno che diventa un terrorista internazionale e logicamente viene perseguito, non è che cambia se aumentiamo l'onta del tradimento. Grazie Bruno Ballardini, alla prossima, torneremo.